salsa al escargot. Mi viene il mal di pancia e di tornare in quel paese non pare proprio il caso, perché i francesi hanno sempre la puzza sotto il naso. Ma c'è un paese che è